Ed eccomi qua anche oggi venerdì 20 settembre 15:14. Rigorosamente in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme, naturalmente in mia compagnia fino alle 17, sempre con tanta bella musica, novità, curiosità, notizie, gossip e tanto altro. Allora vi ricordo subito i numeri per potermi raggiungere: lo 0921 92 32 92 per i vostri sms, il 335 56 37 251. Vi ricordo inoltre che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmepiradio.it, oppure sulla nostra pagina Facebook. E se non siete, lo ripeto sempre, ancora tra i nostri contatti, semplice, andate su Facebook, scrivete crmepiradio, così anche voi entrerete a far parte della nostra famiglia, cliccate mi piace, così potrete postare, messaggiare con noi e curiosare appunto nella nostra pagina. Allora, pronta per partire? Diciamo sì, dai, partiamo e cominciamo! Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of le date in Gran Bretagna, Irlanda e America Latina del loro Where We Are Stadium Tour 2014, One Direction annunciano gli appuntamenti europei per i mesi di giugno e luglio. L'unica tappa italiana sarà il 28 giugno 2014 allo stadio San Siro di Milano. Inoltre la band ha annunciato due nuovi concerti in Gran Bretagna e uno in Irlanda. A grande richiesta è stato aggiunto un terzo appuntamento per le città di Manchester, Londra e Dublino. I biglietti per le nuove date saranno in vendita dal 28 settembre. La notizia di queste nuove date segue l'annuncio del terzo lavoro discografico dei One Direction, Midnight Memories. L'album verrà pubblicato il 25 novembre e comprenderà il singolo Best Song Ever, premiato come canzone dell'estate ai recenti MTV Video Music Awards. Il mese scorso i One Direction hanno fatto il loro debutto al cinema con il film concerto in 3D One Direction This Is Us, e il film ha ottenuto un incasso lordo di 60 milioni di dollari. A cipicchiolina. Ma sono bravi, se lo meritano, questa nuova band di giovani ragazzi che devo dire sta sbancando, insomma, sono veramente eccezionali, bravi. A me le loro canzoni, devo dire, che piacciono tanto. Quindi in bocca al lupo a questa band che continua ancora ad avere tanto e tanto tanto tanto successo. E noi continuiamo e andiamo avanti. Sapore d'estate, quest'estate che, ahimè, tra poco ci lascerà. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto questo sole, sotto questo sole. Prova costume, in questa ebbrezza che accarezza come piume. Metto via il piumino, prenoto il lettino, gonfio il materassino e abbasso il finestrino. Per arrivare prima mi alzo di primo mattino, ma quando sono lì mi diverto come un bambino, perché stare qui è divino. Sono così rosso, posso sembrare in botta di vino. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto questo sole, sotto questo sole. Camicia bianca e occhiali, roba seria. Ho visto più fondali marini di Valeria, l'estate in gombe con il suo calore. Sta a te capire qual è il posto migliore. Prendo un'estate al limone, che sotto questo sole si muore. Picchia sulla testa, c'è bisogno di un Aulin, ma il sapore di sale come Gino Paoli. Saluta mamma, digli che è una festa, dove l'aria fresca non le canne da pesca. Rihanna con Umbrella ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Vai, saluta mamma, digli che è una festa, dove l'aria fresca non le canne da pesca. Rihanna con Umbrella ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto questo sole, sotto questo sole. Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare, sotto questo sole, sotto questo sole. Guardo che tutto vada al meglio come il bagnino. A te non posso vederti imprevito col calzino. Non è carino creare una discussione, ma se ce l'hai con me avrei bisogno di protezione. Attenzione che ti si accumula la rabbia. Puoi fare il principe solo in un castello di sabbia. Spero tu sappia che ho più inchiostro di una secchia. E dentro quest'acqua limpida c'è chi ci si rispecchia. Saluta mamma, digli che è una festa, dove l'aria fresca non le canne da pesca. Rihanna con Umbrella ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Vai, saluta mamma, digli che è una festa, dove l'aria fresca non le canne da pesca. Rihanna con Umbrella ha fatto un tormentone, la mia è la canzone dell'ombrellone. Vai! Sapore di sale, sapore di sale, sapessi che storie, sapessi che storie. Guardala che mare, guardala che mare. Sapore d'estate con Moreno, che è uno dei ragazzi usciti dal talent di Maria De Filippi, e come dico sempre io, il programma ne sforna di talenti e questo è uno di quelli, appunto. Dopo il successore del suo album d'esordio, Stecca, Moreno parte in tour dal 29 settembre a Nonantola nei club. Ho registrato già il tutto esaurito a Roma per il 5 ottobre, ormai restano pochissimi biglietti per i live di Milano del 1 ottobre. Il concerto sarà anche in omaggio agli artisti della scena rap, da Eminem a Fabri Fibra. E scaletta, naturalmente, non mancheranno che Confusione, Sapore d'estate che abbiamo appena ascoltato, e il nuovo singolo La novità, che uscirà a breve, quindi lo sentiremo anche noi a breve, ve lo faremo ascoltare. Quindi bravo, grande Moreno. Poi tra l'altro a breve partirà la nuova stagione di Amici e ancora ci sono un po' i provini un po' in tutta Italia, e poi naturalmente partirà questa nuova puntata, appuntamento appunto con questo programma che di talenti ne sforna veramente tanti, lo ribadisco, perché poi comunque sono veramente bravi tutti coloro che sono usciti da questo talent show. E noi andiamo avanti, 15:23, siete sempre in diretta su CRMP Radio, insieme a Jerry, insieme a me, lo ricordo naturalmente perché si fosse messo all'ascolto solo in questo momento. Sarò con voi fino alle 17, sempre con tanta bella musica. Allora andiamo avanti. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the boat and make a mess, so I said quietly, agreed politely. magicamente insieme su CRM Happy Radio. Laura Pausini conquista la prima posizione della classifica Top Digital Download con il suo brano appunto Limpido, insieme alla un'altra grande straordinaria cantante Kylie Minogue. Il brano, scritto con Simone Virginio Simonelli in rotazione radiofonica, è disponibile sulle piattaforme digitali appunto già da qualche giorno e si afferma come il più scaricato della settimana, spodestando artisti italiani ed internazionali. È a 20 anni dal suo debutto, a pochi mesi dall'uscita del suo Greatest Hits e alla vigilia di un tour mondiale, la cantante italiana più amata nel mondo si conferma ancora una volta regina della classifica. Beh, una grande artista italiana come Laura Pausini, devo dire, ce la invidiano un po' dappertutto, appunto in tutto il mondo. È conosciutissima, bravissima, voce eccezionale, poi comunque i testi delle sue canzoni sono veramente molto molto molto belli, insomma. E noi continuiamo ancora sempre con la bella musica. Sono 15:32 e siete sempre insieme a me su CRM più Radio, rigorosamente, mi raccomando, all'interno di Semplicemente Insieme, per trascorrere ancora insieme a me questo pomeriggio di venerdì 20 settembre, sempre con la bella musica. I took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough.

angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I dal nostro sito, che vi ricordo è il www.crmfradio.it. Vi ricordo per i vostri sms il 335 56 37 251, ancora lo 0921 92 32 92, e vi ricordo la nostra pagina Facebook. E noi andiamo avanti, la prossima canzone, articolo 31, la fidanzata. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Mamma mia, ci vuole la fidanzata, pure che mi faccia vivere nel modo giusto e non così. Sono in preda a una psicosi, rischio una nevrosi. Mami, non posso continuare questo andato da funky gigolo. Ogni giorno sul mio palco recita lo stesso show di Pippa Logo, cristallo e vino, dolce vita però spesso stile Peppino e Totò. Le mie ex dicono che sono un bastardo bugiardo, ma io gioco d'azzardo. La mia con i ragazzi della banda cospirando, manco si trattasse di una rapa in banca, per cacciar la bimba da portare in branda. Ci manca, trattasi di avventuriere straniere, amori che si rivelano chimere, le puoi vedere sparire alla luce del mattino come un sogno. Adesso passa, ora so di chi ho bisogno. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, pure che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, prima o poi io devo metterla sta testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, magari una che mi contraddica, qualsiasi cosa dica, che non mi faccia uscire con gli amici e poi mi porti al cinema. Io lei ho una sua amica che mi ripeta che sono disordinato, che mi chieda se ho bevuto, che quando sono affamato sia dieta, che non mi creda se sono sincero e se mente lei pretende che me la beva, che mi telefona mentre sto lavorando e se le dico che al momento sono occupato ti richiamo. Quando la chiamo dice che non l'amo e fa l'offesa, che abbia la pretesa che ogni giorno io le faccio una sorpresa. Mi ci vuole un po' di disciplina, che mi obblighi a svegliarmi presto la mattina, che mi faccia stare un'ora a esaminare una vetrina, che quando danno un filmone in TV inviti gente a cena, che mi svegli per chiedermi se sto dormendo, che tenti di cambiarmi poi mi accusi di stare cambiando. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, pure che mi faccia vivere nel modo giusto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, perché io devo mettere la testa a posto. Mamma mia, ci vuole la fidanzata, una che mi faccia vivere nel modo giusto. Ma in fondo la mia vita non è poi malaccio, con i casini che faccio e qua in cui mi caccio. So che non è serio cambiare ogni sera, ma preferisco un overdose di libertà che una dose di galera. Cattivo con i nemici, con le bimbe e un agnellino, di pupe io del gangster di Chicago, persino al bar del Giambellino diceva anche ero un mago, mi chiamava Drago. Ma aspetta che ti spiego, forse la fidanzata non mi serve come prima ti dicevo. Continuano a fare zig zag tra soubrette, vedette, tête à tête con ballerine di TikTok. Ad essere infantile ma con stile, fidanzare me è un'ingiustizia per la popolazione femminile. Quindi una alla volta, avanti c'è posto, questo è il modo che mi dà più gusto, quindi è quello giusto. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata, così le faccio mettere la testa a posto. quello giusto. Le shaker con Johnny Cannuccia, la Gigliaccia di Jack Johnny, DJ Jen, a Chivolta di Muro, dal 1940 al 1998, sono spaghetti funk a palla, vai bene. E su questa canzone saluto Giorgio, ciao Giorgio, con questa bella richiesta degli articolo 31, la fidanzata. A proposito di fidanzate e fidanzati, beh, trovare, diciamo, il vero amore è difficile, ognuno cerca strade diverse per trovare quindi l'anima gemella. Apparentemente per una manager di San Francisco una buona strada è utilizzare i soldi. Beh, la donna ha deciso che doveva darsi da fare, diciamo, in modo più attivo per trovare l'amore. Anziché uscire a cercare di incontrare nuova gente, ha scelto invece di mandare un'email a tutti i suoi amici, offrendo una ricompensa in denaro a chi le presenta il suo futuro marito, $10,000 pagati il giorno del matrimonio comunque. Il ragionamento della donna è che comunque trovare un marito è un impegno anche economico, tra uscite, vestiti, prodotti e trattamenti di bellezza. I $10,000 quindi rappresentano un investimento per cercare di comprimere i tempi della ricerca e quindi ridurre altre spese. E soprattutto per motivare di più gli amici. Infatti la donna ha osservato che se da un lato una grande percentuale di matrimoni nascono grazie alla presentazione tramite amici comuni, molto spesso però gli amici non si preoccupano più di tanto di presentare le amiche single agli amici single, e queste presentazioni arrivano un po' per caso. Quindi questa è l'idea di questa donna che ha deciso così di trovare fidanzato, insomma, regalando insomma $10,000 agli amici. Insomma, chi gli presenterà per primo l'uomo della sua vita riceverà questi soldi, naturalmente a matrimonio effettuato, giusto? Beh, ne arrivano di idee strane qua, di notizie strane, eh? Questa potrebbe essere un'idea. Va, voi siete d'accordo con questa idea o preferite trovarvelo da solo il fidanzato? Io direi sì, alla vecchia maniera, ognuno esce, chissà, per strada, al supermercato, e incontra l'uomo della propria vita. Chissà, chissà. When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with you. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go so weak. I can hear the sound of violins long before. Dancers may be on the floor, yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Then you feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. sono le 16 e un minuto. L'ora esatta vi è offerta dall'orologeria e gioielleria Danna Vincenzo, Corso Ruggero 34, Cefalù. CRM Notizie. Buon pomeriggio. La legge di stabilità sarà il cuore del rilancio della crescita, così il Premier Letta dopo il Consiglio dei Ministri, che ha aggiornato al ribasso le stime 2013 su PIL e deficit. Sui conti, ha aggiunto, pesa il ritorno dell'instabilità politica, ma gli obiettivi sono a portata di mano. Nuovo appello di Napolitano a evitare tensioni tra politica e magistratura. Non possono essere mondi ostili guidati dal rispetto reciproco. Il capo dello Stato è tornato a chiedere rispetto per i magistrati, invitati però a sobrietà e riservo. La procura di Genova ha indagato Franco Giammoro, direttore di macchina della Jolly Nero, il cargo che a maggio ha abbattuto la torre piloti nel porto ligure, provocando 9 vittime. Tra i reati contestati, omicidio colposo plurimo in concorso con il comandante, il pilota e il primo ufficiale. In Val Susa saranno inviati altri 200 soldati a protezione del cantiere della TAV. La decisione è stata presa oggi dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza dopo i danni arrecati di recente ad alcune imprese impegnate nei lavori. L'aborto è il frutto della cultura dello scarto, ogni bimbo ha il volto del Signore, così Papa Francesco all'indomani dell'apertura ai divorziati e alle donne che hanno abortito in un'intervista a Civiltà Cattolica. La Chiesa aveva detto: è misericordia, non tortura. La tempesta che da giorni colpisce il Messico, 160 finora i morti, si è trasformata in uragano con piogge violente e venti fino a 120 km orari. Quasi 1 milione di persone ha bisogno di assistenza, a Acapulco tra le località più colpite. E per ora è tutto, più tardi. CRM. CRM Happy Radio. Segui CRM su tutti i principali social network: Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus. Ascoltaci e guardaci sul tuo iPhone, iPad o su tutti gli smartphone e tablet Android. CRM Happy Radio, sul tuo telefonino e sul tuo PC. CRM. CRM. Si sente e si vede. Il tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Non ti sorprendo più con le mie follie, con le mie teorie, che per amarsi non per forza serve tanto tempo, o come dici tu, saggiamente, forse neanche qualche giorno. Ma non dimentico neanche l'attimo in cui mi hai visto lì seduta sola ad aspettarti. Tu te ne stavi lì fermo con la paura di svegliarti, guardare insieme a te il sole sciogliersi e tirar tardi in giro a piedi per le strade lì. Poi non trovarsi, sentirsi persi con la paura di cercarsi. Allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via. E adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle, di tuoi baci, poi guariscimi. Fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho di perderti. La paura che ho di perderti. Ed è incredibile se poi ripenso che il primo bacio è arrivato come un acquazzone imprevedibile, ma così bello come pioggia, pioggia dopo tanto sole. Io che stringevo le tue mani per ore e ti dicevo che dalle mani sento molte cose. Tu non capivi le mie parole, ma lo capisci ora, ora che non siamo insieme. Allora porta via questa malinconia, devi convincermi che non sei mai andato via. E adesso scaldami in tutti gli angoli con la tua pelle, di tuoi baci, poi guariscimi. Fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi cancella dentro me l'incertezza e la paura. rabbia, questa malinconia. Devi convincermi che non sei mai andato via. E adesso scaldami in tutti gli angoli, con la tua pelle, di tuoi baci, poi guariscimi. Fammi sentire tutta quella voglia che hai di vivermi. E poi cancella dentro me l'incertezza e la paura che ho di perderti. Sono ancora insieme a voi su questa canzone. Saluto Rosanna che ce l'ha richiesta sempre qui al 335-56-37-251. La prossima è una dedica che il nostro Peppe Pippo vuole appunto dedicare alla sua Serena. Hola, I'm in love. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Rewind it back the day before Tuesday. Stole my heart on Monday. She had me deep on Tuesday. Shut me up on Wednesday. Wish I was not. Wish I was not. But I'm in love. I'm in love. I'm in love. Love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. Love. And I say, oi, oi, what you gon' say? I'm a sucker when she pulls her game. And I say, oi, oi, what you gon' do? I'm in love. Messed it up. Cause I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. I'm in love. And I say, oi, oi, oi, what you gon' say? I'm a sucker when she pulls her game. And I say, oi, oi, what you gon' do? Parte di Giuseppe, di Peppe alla sua Serena. Un bacione ragazzi, giustamente ricambia la dedica fatta da Serena. E noi andiamo avanti con arriva lui, Vasco Rossi, su questa canzone. Saluto il nostro radioascoltatore affezionatissimo Rambo. Solo a te ogni respiro, ogni momento che vivo. Sei l'unica, unica per me, le altre le vedo, gli altri sì che le vedo. Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Fammi godere. passioni che tu, tu sai davvero di darmi. Perché tu vai, vai veloce come il vento. Le espressioni di godimento sul tuo volto. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Sometimes I hate every single stupid word you say. Sometimes I wanna slap you on your whole face. There's no one quite like you. Push all my buttons down. I know life would suck without you. Uh-oh. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? You're the only love I've ever known. But I hate you, I really hate you so much, I think it must be true love. True love, it must be true love. Nothing else can break my heart like true love. True love, it must be true love. No one else can break my heart like you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Just once, please try not to be so mean. Repeat after me now. R-O-M-A-N-C-E-E. Come on, I'll say it slowly. You can do it, baby. At the same time, I wanna hug you. I wanna wrap my hands around your neck. You're an asshole, but I love you. And you made me so mad, I ask myself why I'm still here. Oh, where could I go? I think it must be true love. True love. It must be true love. Nothing else can break my heart like true love. True love. It must be true love. And no one else can break my heart like you. Oh, su questa canzone saluto Patrizia, un'altra affezionatissima di CRM. Ancora una volta vi ricordo i numeri per i vostri sms: il 335 56 37 251 e ancora lo 0921 92 32 92. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul nostro sito, che è il www.crmhappyradio.it, o ancora sulla nostra pagina Facebook. In fondo questa mia vita è un eterno concerto, un palcoscenico aperto, animato ogni giorno di più. La mia mente si accende, il destino qui gioca i suoi assi. Se solo potessi, non smetterei più. Una sorta di alchimia che ci vuole qua. Niente di magia, tutto il resto banalità. Una foto, un saluto e ciascuno si goda Renato. Dopo tanto silenzio era giusto arrivasse anche a te. Malinconico, ironico e sempre così innamorato. Quando tu con coraggio gli mostri la tua verità. Anime che cantano anche quando è inverno, amori si comandano, lui è sempre più fiero di voi, più fiero che mai. Dimmi come ti va, poeta, questo tempo è crudele si sa, poeta. Dimmi come ti va, poeta, dimmi come ti va, poeta. Ti aspettavi qualcosa di più, è andata bene perché sei vivo. Gli aguzzini però nessuno li schioda da lì. Un tocco di genialità, puoi farli sparire così. Dimmi come ti va, poeta, e la musica è bene che fa. Noi ci siamo reciprocamente già contaminati. In questo viaggio vado per sempre a una sporca routine. Mille volte caduti, mille volte rialzati. Questa nostra determinazione ci premia così. Storie che coinvolgono e noi intoniamo un canto. Sempre pronti a spenderci, basta un poco di sincerità ad accenderci. Come ti va, poeta, quando fare il sipario che fai, poeta, dov'è che ti nutrirai, poeta, senza luce anche tu, poeta, sei un piccolo ancora di più, poeta, riempire adesso se puoi la scena. Sono felice per te, se ancora successi otterrai, ma quando l'applauso non c'è, potrai sempre tornare da me. Dimmi come ti va, poeta, quella musica è bene che fa, poeta, e ancora la tua dignità è buona. Francesco che ce l'ha richiesto, vi ricordo ancora al 335-56-37-251 il nostro sito che è la www.crmepiradio.it. E a proposito del grande Renato Zero, beh, dopo aver messo a segno 6 sold out al forum di Assago e in attesa dell'uscita del nuovo album Amo capitolo secondo, il 29 ottobre Renato Zero annuncia il suo ritorno a Roma. Il 16, 18 e 19 dicembre il Palalottomatica riaprirà le sue porte allo show di Zero, che la scorsa primavera ha registrato già oltre 100.000 spettatori per un intero mese di concerti. Insieme alle 3 date nella capitale, il calendario di Amo Tour si arricchisce anche di una tappa all'Adriatic Arena di Pesaro il 13 dicembre. Proprio alle platee che lo attendono nelle prossime settimane nei palasport di tutta Italia, oltre a ripercorrere la sua storia musicale dai suoi inizi appunto ad Amo attraverso medley, videoclip e con lo sfondo di una scenografia spettacolare, Renato canterà in anteprima 3 brani inediti contenuti nel suo nuovo disco, tra i quali il nuovo singolo dal titolo Nessuno tocchi l'amore, che arriverà nelle radio appunto a fine settembre. Quindi in attesa di questo suo nuovo singolo vedremo insomma il grande Renatone, un grande artista veramente italiano, un poeta vero, vero e proprio della musica italiana. E noi continuiamo, ancora sono le 16.27 di questo venerdì di 20 settembre, siete in mia compagnia fino alle 17 all'interno di Semplicemente Insieme, rigorosamente in diretta su CRM Happy Radio. I don't wanna be left behind. Distance was a friend of mine. Catching breath in a web of lies. I've spent most of my life riding waves, playing acrobat, shadow boxing the other half, learning how to react. I've spent most of my time catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my cloud, making time for the ones that count. I'll spend the rest of my time laughing hard with the window down, leaving footprints all over town, keeping faith karma comes around. I will spend the rest of my life catching my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catching my breath, letting it go, turning my cheek for the sake of the show. Now that you know this is my life, I won't be told what's supposed to be right. Catch my breath, won't let them get me down. tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Ci vuole qualche cosa di più. Ci vuole un po' di pushing, pushing. Quando il sole va giù, ci vedi qualche cosa di positivo in uno. Ci vuole un po' di catch and funk, quando il sole no, no. Oh yeah. Sempre qui al 3355637251. E adesso vi parlo di una notizia, arriva una notizia, perché praticamente in Sud America sta diffondendosi un intervento estetico piuttosto particolare, perché vengono modificati gli angoli della bocca in modo da dare al volto un effetto di perenne sorriso. In pratica agli angoli della bocca vengono fatte delle piccole incisioni verso l'alto in modo da accentuare il sorriso, con un effetto che però a molti fa tornare in mente Joker di Batman, specie negli interventi condotti da specialisti meno preparati. Altri però sottolineano che diverse donne coreane di mezza età, quando le guance iniziano un po', diciamo, ad andare giù, quindi a cadere, tendono ad avere un aspetto sempre triste, specie se hanno la bocca piccola. Prima dell'operazione non era in grado di avere un'espressione sorridente, spiega un portavoce di un istituto di chirurgia estetica, parlando di una donna che si è sottoposta all'intervento. Beh, queste notizie è una insomma, io non è che sia tanto d'accordo con questa notizia, insomma, questi interventi chirurgici per far sì, insomma, di sollevare un po' le labbra e fare, avere sempre il suo sorriso stampato in faccia. Il sorriso, beh, bisogna averlo dentro, bisogna essere felici dentro, e quindi, e poi naturalmente lo si porta fuori questo sorriso, questa gioia, questo sole che tutti noi, insomma, chi più chi meno abbiamo dentro. Basta solo lasciarlo uscire, pensare positivo ed evitare di fare questi interventi alla bocca. Io sto vedendo le foto e devo dire che sembra vero Joker di Batman, quindi evitatelo, meglio un sorriso naturale. Bene, che dite? Voi siete d'accordo con me oppure siete d'accordo con questa notizia che arriva appunto dalla Corea, in sud? E ne continuiamo, andiamo avanti, sempre con la bella musica, rigorosamente sempre in diretta su CRMP Radio. Siete in compagnia di Jerry fino alle 17. This was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. Ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, come on now. And I got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction, that's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So put the feelings right, then raise your glass and let's take back the night, oh. Take back the night, oh. They gon' try to shut us down, but I'll be damned if we gon' let them. Take back the night, take back the night, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, yeah. Real, there's not too many. But you in crowded rooms, we can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you're moving, you go crazy. That's incentive for me. Wanna do something right, yeah. But we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't tryna save it for later. Stay out here living the life. Nobody cares who we are tomorrow. And you got that little something I like, a little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Glass and let's take back the night, take back the night, they gon' try to shut us down, but I'll be damned if we gon' let 'em. Take back the night, take back the night, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, break it down, break it down, and I won't say. Pomeriggio su CRM Epiradio è semplicemente insieme. me, l'inverno è caldo su da me, non senti il freddo che fa in questa nostra città, perché non vieni su da me, saremo soli io e te, ti posso offrire un caffè, in fondo che male c'è. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era stamani, amore, pensando a te, il primo fiore mi ha detto che l'inverno ormai se ne va, ma tu rimani con me. Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? C'è qualche cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Beh, questa diciamo che è l'ora della pausa caffè, no? Ci sta la pausa caffè. Sapete che la pausa caffè comunque fa bene al lavoro, perché aiuta l'impiegato a resistere allo stress da ufficio, socializzando tra l'altro anche con i colleghi. Del resto lo suggerivano anche i pigri Luca e Paolo di Camera Caffè, ricordate? La conferma arriva da uno studio condotto presso l'Università di Copenaghen e pubblicato su Symbolic Interaction. In questo studio praticamente si è osservato che i gruppetti di colleghi che si formano al bar, magari davanti alle macchinette del caffè nei corridoi dell'ufficio, fanno bene all'impiegato, aiutandolo quindi a reggere la tensione lavorativa. Queste pause sono importanti per la socializzazione e lo scambio di opinioni professionali, utili anche a sfogare le proprie frustrazioni lavorative. Insomma, di fronte alle macchinette del caffè si formano dei veri e propri gruppi di supporto che potrebbero essere di giovamento alla produttività stessa dell'azienda. Gli altri studi hanno certificato l'importanza delle pause in ufficio, per esempio uno studio del Dipartimento di psicologia della New York University pubblicato su Neuron dimostra che con le pause il cervello recupera e riesce a rendere meglio, con ricadute positive sulla produttività al lavoro. Quindi la pausa caffè fa benissimo. Poi sappiamo che il caffè, inoltre, secondo uno studio, a quanto pare fa anche bene, a parte la caffeina, che è già il principio attivo nel caffè, che agisce prevenendo la fatica, facilitando quindi il lavoro mentale e aiutando la digestione. Beh, ha altre proprietà ben note, ne possiede altre meno conosciute ma molto preziose. Per esempio, ha infatti effetto frenante sull'appetito e diminuirebbe i rischi dell'infarto. Il consumo di caffè, grazie alle sostanze antiossidanti in esso contenute, permetterebbe di proteggere il fegato da patologie come cirrosi ed il tumore. Inoltre, secondo uno studio recente, il consumo di una tazza di caffè al giorno ridurrebbe il rischio di ictus e ictus emorragico. Tenendo presente che è sempre bene evitare gli eccessi, da oggi in poi, quando ci troveremo a sossergiare la nostra consueta tazzina di caffè giornaliera, il nostro pensiero non potrà che andare a tutti i possibili benefici che esso può dare. Quindi mi raccomando, utilizzatelo, cioè bevetelo, senza però farne abuso, ovviamente, come tutte le cose, ok? E anche la pausa caffè, devo dire che a quest'ora ci sta proprio, quindi andrò a prendermi un caffè proprio a quest'ora, ci sta, sì. E noi andiamo avanti, arriva Holy Mars. Dear darling, please excuse my writing. I can't stop my hands from shaking, 'cause I'm cold and alone tonight. Tuo pomeriggio su CRM Happy Radio è semplicemente insieme. Solo ascolterò se mi cercherai. Non ci sei tu nei sogni, né ora né mai. Oh no. Mai, mai al mondo ti perdonerei. Non importa se vinco, ma tu perderai. Vado via, vi ricordo l'appuntamento insieme a me la prossima settimana, lunedì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17, sempre con Semplicemente Insieme, insieme a me. Non mi resta che augurarvi quindi un buon proseguimento con i programmi di CRM Pi Radio. Vi auguro una buona serata, un buon weekend e soprattutto, come dico sempre io, fate i bravi. Ciao ciao, a lunedì, baci baci.